Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Cominciare quella che è la terza parte di Eclettica di questa 28esima settimana, che arriva dopo la 27esima, è ovvio. Su questo assolutamente non ci piove. Però la settimana scorsa Eclettica non c'è stata, ve ne sarete sicuramente accorti nel caso siate fra coloro che ascoltano Eclettica per radio, sulle normali frequenze terrestri, in diretta o in replica, nelle due possibilità che vi sono date fra il martedì e la domenica sera, sempre alle ore 22. Nel caso invece ascoltiate Eclettica nel momento che preferite, grazie al podcasting, beh, allora il discorso forse perde un po' di senso, come mi sto accorgendo che sta perdendo di senso dare dei limiti temporali ai compiti, i compiti della settimana, perché arrivano delle risposte con qualche settimana di ritardo, perché coloro che ascoltano le trasmissioni grazie al podcasting non hanno sicuramente i vincoli temporali che hanno coloro che invece ascoltano per radio, quindi dovrò trovare un nuovo meccanismo, i cosiddetti aggiustamenti in corsa che tanto bene fanno al formato di una trasmissione. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, quindi anche questa sera, anche per questa parte, quindi forse anche il termine sera non è proprio più così corretto. Giulio è radiorockfm.com, se volete istruzioni sul podcasting, se volete segnalarmi qualcosa di piacevole o dispiacevole, darmi qualche consiglio per quanto riguarda Eclettica, quello è sempre l'indirizzo. Se volete vincere biglietti anche per quanto riguarda concerti, per esempio questa settimana ci sono in palio quelli di Isobel Campbell a Bologna e a Rimini il 28 e il 29, Estragon e Velvet rispettivamente. Invece le due date precedenti ormai sono passate, quella di Milano e quella di Torino, e ovviamente quello è l'indirizzo anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui, e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Questo era l'incipit della Luna e i Falò di Cesare Pavese. Life.

Lui si fa conoscere con il nome di Mertz, però effettivamente il suo vero nome è Conan Lambert. Love Heart è il titolo del brano che c'è per la Groenland Records, dal quale ci siamo ascoltati Postcard from a Dark Star, ed era l'ennesima volta che questo brano compariva sulle frequenze di Rock FM, che questo brano compariva nelle playlist di Eclettica. A proposito di Eclettica, a proposito del podcasting di Eclettica, mi rendo conto, sempre più passa il tempo, che non è che voi amiate così tanto il Music Store di iTunes e recuperiate le trasmissioni in podcasting passando di lì, ma sono sempre di più. Alcuni di questi sono stati segnalati anche nei mail che io mando con allegate le playlist di questa trasmissione. Alcune delle indicazioni che voi date, o via browser, per esempio tramite Google, o tramite altri client, vi trovate sicuramente meglio. Comunque sono tanti i modi per accedere al podcasting di Eclettica, e quella strada che avevo indicato io non sembra da voi molto seguita. Va bene così, va benissimo, va bene comunque. C'erano dei motivi per passare di lì, ma ce ne sono altri più forti che vi fanno passare da altre parti. Questa Apple che, insomma, sta come diventando quasi come una nuova Microsoft, e quindi non viene guardata con troppa simpatia. Penso che ci sia molto, molto di questo a spiegare anche i comportamenti da parte di voi, molti di voi, a parte ovviamente le scelte legate anche al sistema operativo che uno usa per accedere, che quindi limitano l'utilizzo di iTunes su determinati sistemi operativi aperti. Ritorniamo a Bubu 7, l'album dei Masoco, la band romana capitanata da Davide De Leonardis, dalla quale già ci eravamo ascoltati un brano. Ecco, per Snowdonia esce questo disco, dal quale noi ce ne ascoltiamo un altro rispetto a quello che era già passato, una diversa enfasi, una diversa carica. Questa è Alfonso. Census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Piacciono questi canadesi, me lo fate notare scrivendo giulio@radiorockfm.com, come piacciono molti dei canadesi che nel tempo sono passati da Eclettica. Loro si chiamano Controller PF, il titolo del brano, che esce per la Paperback Records, o meglio X Amounts è l'album che esce per la Paperback Records, che contiene poi questo PF, traccia numero 2 delle 11 contenute all'interno di questo disco. Ora ci trasferiamo in Islanda, ma non aspettatevi atmosfere sognanti alla Sigur Rós o simili. E questo è un disco che risponde al nome di Ghost Digital, però se vi dico l'etichetta IPCAC o IPCAC, come preferite, capite che stiamo andando su territori che potremmo senza sbagliarci troppo definire disturbanti, magari non tanto nel brano che io ho scelto per il disco uscito da poche settimane, In Cod We Trust, quanto altri sono sicuramente più disturbanti di quello che io ho scelto. Ho scelto la traccia numero 8, che si intitola Black Sand, ed è una traccia in cui, oltre al leader di questo progetto, ve lo ripeto, Ghost Digital, che non è nient'altro che Einar Örn, ex Sugar Cubes, vede presente alla voce niente po' di meno che Dialect. Act natural, falsify thoughts, form parables, deleted syllables for the source saying, the heat of combat, fists made of open hands, what we know consists tidbits of truth, ruthless youth, spitted ancestry, fake memories, only whole grain, vulgar attacks seem tame in this tarnished age, debates rage, internal, eternal, seek to seek soul from self-inflicted bullet holes, poetic flow falls at feet like strange prose. What do you not know? What do you not know? You was just standing in there on the beach and saying, I don't know about this black sand. The black sand is in my mind. I said, what do you not know? What do you need to know? Your memory, is your memory gone? Is your memory totally gone? Is it black sand? Is it black sand? Is it this massive black sand? Is your memory just black sand? Is your memory just black sand? Is your memory just black sand? Remembering nothing. Remember everything. Recollect. She's sitting in there on the beach, looking him in the eye. I see the blackness at the bottom of his eyes. Seen the edge of insanity, sound felt from midst to form silence. Sickness will form the form cynics, inherit violence to leave the saints livid. Perhaps as guys and tongues are us to mimic. Seen the riches while we destined to dine on scraps. See my people's fall while the rest laugh. Ego attack, I clasp hands on final threat and meditate on collapse of the human race. I don't see hope, only see massive difference. I barely see ears remotely fit to listen. See the message to come to the medium. Seem despair cause you know they're not freeing us. Come on, give it a go. Ve lo dico subito la trasmissione di questa sera, o meglio questa terza parte di Eclettica Sera, lo devo eliminare dal mio vocabolario. Sforerà di parecchio rispetto ai 30 minuti, perché voglio chiudere con un disco che ho trovato questa settimana e voglio farvi ascoltare assolutamente. Ci siamo appena ascoltati Band of Horses, band di Seattle che incide per Sub Pop, battuta che era piaciuta molto in Texas, come avevo letto qualche giorno fa. Per chiudere con i Two Gallants, ma non è il loro disco per Saddle Creek, è il loro disco del 2004 per una sconosciuta Live Records dal titolo The Throes, disco dal quale noi ci ascoltiamo un brano che ha per titolo Nothing to You e chiude la terza parte. One of the few, and the lost cause of words walks away with my nerves, 'cause I'm gay as a choir boy for you. You got hair that recalls me of rivers, run softly while you dream of you. But your heart is so cold that it shivers, 'cause all that I know is I'm nothing to you. You into the party that no one invited me to, but alone I made love to my 40 and played make-believe it was you. But I watched you forget your belongings and belongings, you've got quite a few. I filled up your bags with my longings and searched through this whole wide city for you. And we'll walk neath the street lamps forever. You'll say you remind me of you. It's so damn cliche that it's clever. It's so fucking false, you think that it's true. 'Cause I heard that you forgot you were a lover. And lovers, you've got one or two. But you can't tell one from the other. Now, mama, now you're nothing to you. And it's down by the riverside. And it's down by the riverside. And it's down by the riverside. And it's down by the riverside. Wasting away. And it's down by the riverside. Feet in the clay. And it's down by the riverside. Wasting away. And it's down by the riverside. Feet in the clay. Eclettica, fine della terza parte.